De Lanzo, de Calcuto Noi. Hai ragazzi, qua gole podosco, te do tutto con voi. E se sos nofe, ciao. prova. Prova. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Default. E allora, purtroppo Alemanno ha tentato di sabotare i microfoni di Radio Default, ma no, scherziamo, eccoci qui dopo questo scherzo. E, ragazzi, mi sentite? Mi sentite? Allora, auguriamo ancora una buona serata a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Default, qui da Whiskey Trip. Questi che abbiamo appena ascoltato, appena qualche minuto fa. Grandi, grandissimi. Questi che abbiamo ascoltato erano Marinette Bonnet e Perret Romani con Le Petites Balles de la Marine, un pezzo tradizionale, una balle musette, che è una danza popolare francese. Questa puntata infatti è interamente dedicata al Gypsy Jazz, al jazz manouche, e appunto quel genere musicale è nato in Francia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nato dall'incontro tra la tradizione manouche, che appunto sarebbero la popolazione Sinti in Francia, una delle etnie della popolazione Rom originaria dell'India, l'incontro tra questa musica, la musica tradizionale francese, e le influenze del jazz americano, la musica classica europea. Questa sera quindi abbiamo scelto, vi proponiamo una puntata interamente dedicata a queste sonorità, e in più avremo modo di fare approfondimenti e con testimonianze sulla cultura rom in genere, sulla situazione dei campi nomadi, in particolare a Roma, nella gestione dell'attuale sindaco Alemanno. E quindi questo era un duo di fisarmonica, uno strumento tipico di questo genere, della balle musette, ripreso poi da molti musicisti del manouche. E i prossimi pezzi che ascoltiamo invece, abbiamo due pezzi di uno dei protagonisti assoluti del jazz manouche, e sono emozionato perché anche uno dei miei musicisti preferiti in assoluto, un chitarrista assolutamente unico, e parlo, forse l'avrete capito, parlo di Django Reinhardt, una delle figure più grandi del jazz europeo e non solo, e uno che ha dato grande notorietà a questa tradizione, a questo genere. E allora, prima di andare avanti, prima di proseguire anche con gli approfondimenti, ci ascoltiamo due pezzi di Django Reinhardt. Il primo si chiama I'll See You in My Dreams, e a seguire ascolteremo Charleston, sempre di Django Reinhardt, e poi daremo anche delle informazioni su di lui, racconteremo un pochino la sua storia che è molto affascinante. Allora adesso invece ci concediamo la musica, lasciamo spazio alla musica con I'll See You in My Dreams e Charleston su Radio Default. Thank you. Buonasera ragazzi, eccoci tornati in diretta, sono arrivato anch'io nel mentre. Stasera, come già vi ha accennato Alessandro, abbiamo questa puntata seria, è un nostro speciale e anche un po' pretenzioso, dato che la serietà nella mia vita l'ho sempre padroneggiata con difficoltà, però è un argomento che ci tocca da vicino. Abbiamo preparato testimonianze, documentazione riguardo la cultura rom in generale e più specificamente sulle condizioni di questo popolo a Roma, con cui ho avuto pure modo di lavorare per svariato tempo, e abbiamo anche testimonianze dirette che insomma riteniamo preziose, perché non sono cose che si trovano sui media canonici, diciamo. Va bene, arriveremo tra poco agli approfondimenti. Intanto, visto che Alessandro vi ha fatto questa doppietta di Django Reinhardt, io direi che metto in rete il terzo gol, vi passo un'altra sua traccia che è Nagasaki. Gingerbread and dynamite, drink nothing, folks, but that is night. Back in Nagasaki, where the brothers do the back and the women wiggy wacky woo. They got a way to entertain with hurry, hurry, hurricane. Back in Nagasaki, where the brothers do the back and the women wiggy wacky woo. Fujiyama, got your mama, then the troubles increase. Send me cola and a soda, hers shake, milkshake, 10 cents apiece. They hug you and kiss each night, boy, jingle's worth the price. Back in Nagasaki, where the fellas do the back and the women wicked wacky woo. Questo era il grandissimo Django Reinhardt, che nonostante avesse soltanto 3 dita nella sua mano sinistra, fosse analfabeta, incapace di leggere e scrivere, che non conoscesse neanche i nomi delle note, è stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione, un chitarrista, un musicista veramente straordinario, dalla straordinaria capacità di improvvisazione, di inventiva musicale, di fantasia, di stile. Ogni volta che lo ascolto ne rimango veramente affascinato. E rispondiamo a questi pezzi di Django con un altro personaggio di quegli anni, che è Pierre Ferré, Il pezzo si chiama Le Valse de Niglo. E anche lui era un chitarrista del Gypsy Jazz e era soprannominato The Big One oppure The King dagli stessi Manouche. E c'è un film molto, molto bello, molto carino di Woody Allen, per chi non l'ha visto lo consigliamo, che si chiama Accordi e Disaccordi, dove il protagonista è proprio un personaggio ispirato a questo Pierre Ferré, e questo grande chitarrista che ha l'ossessione di essere il secondo chitarrista al mondo, preceduto soltanto da Django Reinhardt. È un film davvero molto bello, che dà anche una bella colonna sonora, insomma lo consigliamo. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare allora di Pierre Ferré è Le Valse de Niglo. Rom, a differenza di quello che credono in molti, non provengono dalla Romania, non provengono dall'Albania, né dall'est Europa in genere. Sono una grande nazione nomade, partita da una regione dell'India del Nord più di 2000 anni fa. Tutte le etnie Rom, per quanto diverse in costumi, valori e religione, sono riunite dalla lingua romanè, lingua che si è sviluppata insieme al loro nomadismo, assumendo parole da ogni tappa del loro viaggio, un meticciato vernacolare itinerante che forma la più grande lingua indoeuropea, parlata da 4,8 milioni di persone nel mondo. Adesso ascoltiamo di Capellino You'd Be So Nice. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire under the stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. La storia dei Rom e dei Sinti è una storia di soppressione che va dalla discriminazione quotidiana e persecuzione razzista fino al genocidio sistematico perpetrato dal regime nazista. Fin dal loro arrivo in Europa, gli zingari sono stati definiti stranieri pericolosi e sono stati accusati di spionaggio, stregoneria, di essere creature diaboliche e spaventose, così come di rifiutare di lavorare per la loro predisposizione al furto. Pregiudizi e stereotipi di tipo razzista si verificano frequentemente in Europa in conseguenza di credenze popolari persistenti, spesso a valle dei mezzi di comunicazione di massa che contribuiscono ad aggravare la discriminazione nei confronti dei Rom. Ascoltiamo di Richard Manetti, Topsy. Thank you. È davvero ignobile e qualunquista giudicare un popolo dai cattivi esempi che vediamo in giro, dai ladri ai bambini che elemosinano. La cultura rom non è solo questo, la cultura rom è uno dei pochissimi esempi di comunità dove l'individuo è veramente libero. Ciò dovrebbe intanto invitarci a riflettere sulle dinamiche reali delle nostre vite e capire che anche noi, visti da un occhio esterno, potremmo allora essere tutti giudicati imprenditori senza scrupoli, politici corrotti, mafiosi e showgirl che fanno carriera svendendo il proprio corpo. Non è così nel nostro caso e fortunatamente non è così anche nel loro. Non c'è niente di più stupido che giudicare una cultura differente senza tirare il naso fuori dai vizi di forma della propria. Prima abbiamo ascoltato Django Reinhardt e adesso volevamo passare due pezzi di uno che con Django ci ha suonato per tantissimi anni, era il fondatore del Quintet du Hot Club de France e parlo di Stéphane Grappelli, violinista del quintetto di Django Reinhardt e anche lui protagonista della stagione del Gypsy Jazz, ha avuto una grandissima carriera. E ci ascoltiamo due pezzi in sequenza. Il primo è Blue Moon e l'altro invece è uno standard reinterpretato magnificamente, che è Honeysuckle Rose. Oh, Era la musica di Stéphane Grappelli, violinista del quintetto di Django Reinhardt. Abbiamo ascoltato prima Blue Moon, poi questa On Sacred Rose. E Grappelli, facendo qualche ricerca, ci siamo accorti che pensavamo fosse francese anche lui, ma in realtà, come si può capire dal cognome, il padre era di Alatri. Quindi qui dalle nostre parti. E allora andiamo avanti con la musica, prima di dare spazio ad altri approfondimenti, ad altre testimonianze sulla cultura rom, sulla situazione qui a Roma. E ci ascoltiamo altri due protagonisti del Gypsy Jazz in tempi più recenti, perché questa musica, questa tradizione, questo stile musicale è iniziato la Francia degli anni 20 e 30 e poi è andato avanti e si è diffuso in tutta Europa, anche nei paesi, soprattutto naturalmente, dove è più forte la presenza dei Rom, dei Manouche, parlo dell'Olanda, del Belgio, della Germania soprattutto. Infatti il duo che ci andiamo ad ascoltare adesso è un duo di Tim Kripwis al violino e Fabi Lafertin alla chitarra. Tim viene appunto dall'Olanda, Fabi è un dei Rom, del Belgio, e tutti e due si ispirano naturalmente a Django, che è il grande profeta, il grande ispiratore di questa musica, il punto di riferimento. E allora di Tim Kripwis e Fabi Lafertin ci ascoltiamo questa Exactly Like You. Thank you. Continuiamo con un altro pezzo di Laverdin, Lacciodrome, che in lingua romanese significa letteralmente buon viaggio. Eccoci tornati in diretta. Prima di proseguire con diciamo la seconda parte di questa trasmissione, di questa puntata tipica di Whisky Trip, dove a breve leggeremo testimonianze sulla vita nei campi rom, sul piano noma di Alemanno, sull'operato della polizia visti dagli occhi dei bambini, e abbiamo anche altre letture, insomma, se se saprete aspettare pazientemente sarete presto ricompensati. Proseguiamo con qualche altro brano e continuiamo su sonorità, insomma, piacevoli e spedite, con un pezzo, un attimo, mi sono perso. Scusate, un pezzo della Vedere i Color Ensemble che è Sinto Swing. I nomi di Manouche sono i discendenti del ceppo zingaro più antico. Sono giunti nell'Europa occidentale tra il XV e il XVI secolo, dopo un viaggio durato circa un millennio. Hanno scelto come sede di permanenza la Francia, l'Olanda, la Germania, il Belgio. La loro origine indiana trova conferma nel nome Manus, appartenente al ceppo linguistico indo-europeo. È entrato nel linguaggio corrente francese come Manouche, che dall'antico hindi deriva dal termine manusa, essere umano. Un contributo significativo allo sviluppo dello stile musicale Manouche fu apportato negli anni 30 dal chitarrista e compositore Django Reinhardt, anch'egli un Manouche. Nel 1934 Django creò assieme al violinista Stéphane Grappelli il quintetto a corde dell'Hot Club de France. nasce un nuovo ed interessante jazz europeo. Nei successivi 20 anni Django fu in grado di mostrare diversi aspetti del suo smisurato talento, un virtuoso dello strumento capace di reinventare radicalmente l'approccio della chitarra nel jazz, un compositore di capolavori sbalorditivi, alla ricerca continua di ispirazione nelle nuove tendenze, passando dallo swing al bebop, dalla chitarra acustica alla chitarra elettrica, ma senza mai perdere di vista le sue radici culturali e le sue particolari sonorità. In breve, fu un raro esempio di intelligenza musicale incontaminata dalle mode e dai tempi. Django morì per un'emorragia cerebrale il 16 maggio del 1953, all'età di soli 43 anni. Passiamo dunque alla Germania del 67 per assistere alla nascita di quello che oggi viene chiamato Gypsy Jazz o Swing Manouche, attorno all'emblematica figura del violinista Schoenekar Reinhard, con il quale molti musicisti impararono il loro mestiere prima di formare i propri ensemble. I musicisti sinti scoprirono Django attraverso i dischi e attraverso la pratica musicale propria delle loro famiglie, amando suonare tra di loro e per loro stessi una musica nella quale si riconoscono, ancora oggi si tramandano di padre in figlio il loro immenso patrimonio culturale. Nelle comunità manouche la tradizione si trasmette oralmente, in occasioni di festa ed incontri familiari, dove la musica occupa sempre un posto preponderante. Senza dubbio l'invenzione di questo nuovo folklore risale alla fine degli anni 60. Il fondamentale riferimento per il suo sviluppo fu il primo quintetto a corde di Django, quello formatosi prima della guerra. I manouche ne impararono il repertorio e acquisirono padronanza con quegli strumenti, due chitarre d'accompagnamento, un contrabbasso per assicurare una imperturbabile sezione ritmica, una chitarra solistica, un virtuoso violino e talvolta una fisarmonica. I chitarristi, fedeli ai propri maestri, danno priorità alla ricerca del virtuosismo e dello spettacolare. Il punto di partenza dei loro studi è rappresentato da un certo numero di composizioni di Django, Nuage, Minor Swing, Minor Demeure, dagli standard suonati da Django prima del 1940 ed alcuni valzer musette, influenza dei fisarmonicisti swing come Guy Visser, Tony Murena o Joe Privat. Questo fenomeno, sia di natura estetica sia di natura sociologica, è stato denominato, forse impropriamente, Gypsy Jazz. I manouche non aderirono del tutto al jazz, ma allo stile di Django, con il desiderio di affermare la loro appartenenza etnica. Il prossimo pezzo che ascoltiamo è di Bireri Lagren, si intitola Ungheria. Thank you. Ascoltato questa grande interpretazione di Biréry Lagrène con Ungheria. Il gypsy jazz o swing manouche può essere meglio descritto infatti come un movimento folcloristico, folklore vivente, aperto a influenze esterne, nel quale è possibile ogni sorta di scambio, abbracciando un ampio spettro di stili pur rimanendo nel proprio contesto musicale. Da una buona decina d'anni l'influenza di Django sembra non diminuire affatto. Sono stati organizzati nuovi festival a lui dedicati in Francia, il Django Memorial Festival, Samol-sur-Rhin, il Festival di Angers e di Strasburgo, in Belgio, in Germania, il Django Reiner Festival di Asburgo, in Svezia, il Gypsy Jazz Festival di Torzalla, in Inghilterra lo UK Gypsy Fest, addirittura in Norvegia Django Festival in Oslo, in Canada, negli Stati Uniti Django Festival di New York e il Northwest Django Fest a Washington, in Islanda, in Giappone e anche recentemente in Italia con il Festival Jazz Manouche Django Reinhardt di Torino. Diversi gruppi composti da zigani o da gagé, termine zigano per definire la popolazione non zigana, stanno conferendo adesso un nuovo look alla musica dell'Hot Club, suonandola sui palchi, registrando in studio, viaggiando e facendo rivivere questa tradizione e riscontrando un successo popolare sempre crescente. Proseguiamo adesso con un ultimo brano prima di passare alle parti più letterarie di questa puntata. Proseguiamo con il Robin Nolan Trio e il pezzo si chiama Number. Yeah. K, che chiameremo soltanto con la sua iniziale, è un ragazzo di 9 anni che viveva nel campo Rom di Via Salviati a Roma, campo in situazioni allarmanti per problemi di igiene, criminalità, droga, uno dei più grandi ghetti del disagio romano, una favela sconosciuta ai più, non troppo distante dal centro di Roma, abitata dall'etnia Coracanè di religione musulmana, una delle più tradizionaliste e conservatrici della cultura Rom. K ha il volto sfigurato, un disegno di cicatrice avviluppa interamente il suo volto, è stato vittima di un incendio sviluppatosi nella sua campina quando aveva 2 anni, dove persero la vita il padre e 2 dei suoi fratelli. K è forte, ha personalità, è un leader per gli altri bambini del campo ed è un impagabile sostegno per la madre sola e le sue 3 sorelle. K, oltre ad occuparsi della sua famiglia, va a scuola e frequenta la quarta elementare. Una mattina, mentre si recava nello spiazzale antestante al campo per salire sullo scuolabus, giocava con un piccolo coltello, un oggetto che non può essere altrimenti che un gioco nelle mani di un bambino di 9 anni cresciuto in determinate situazioni. Ma forse hanno pensato diversamente i poliziotti dentro una pattuglia che passava in zona, che abbiamo visto entrare nel piazzale sgommando e quasi investendolo, dalla quale sono scesi gli agenti che si sono avventati sul ragazzo. Il più grosso, un omone di quasi 2 metri, molto ben piazzato, lo afferra, lo scaglia al suolo e si pone sopra di lui, con un ginocchio sulla sua gola. Tutti siamo accorsi, tutti a implorarlo di fermarsi, ma venivamo allontanati dal suo collega armato. K era bianco come la cera, tremava, sudava e tentava, senza respiro e senza risultati, di implorare la pietà della gente, che non demordeva, che non ha demorse, e si è fermato solo quando il minore giaceva a terra, inerme e svenuto. Una volta rinvenuta, ancora sotto enorme shock, è stato portato insieme alla madre in commissariato. K quel giorno, colpevole di giocare, ha perso un giorno di scuola, ha perso la libertà, ha perso la dignità. Questo è l'operato di Alemanno, della pulizia di Antonio Di Maggio. Questo è quello che, grazie a queste persone, succede quotidianamente nella nostra Roma. F ha 7 anni, i capelli molto lunghi, cresciuti in trascuranza, la corporatura minuta ed esile. E su quel viso di bimba dai lineamenti d'angelo porta appesi gli occhi di chi ha già visto tutto. Sullo scuolabus nessuno ha mai sentito la sua voce, è presa in giro dagli altri bambini perché è sempre isolata da tutti e dissociata dal mondo. Se ne sta lì con i suoi modi composti e fermi, dando l'impressione che sia sempre altrove. I giochi non la riguardano, i legami con le altre persone nemmeno, e quando cerchi un contatto con lei ti buca con uno sguardo che ti fa capire quanto davvero può essere profonda un'anima. F non ha una vita facile a scuola, come molti altri bambini rom viene presa di mira dalla classe. La sua immensa forza viene vista dagli altri bimbi come debolezza e non trova sostegno nemmeno nella sua maestra, che si lamenta continuamente di lei. Si lamenta perché non ha i capelli curati e poco importa se mostra una naturale predisposizione alla matematica molto superiore alla norma della sua età. Non è il grembiule sempre perfettamente limpido e stirato e non importa se comunque sta sempre buona e a suo modo cerca di apprendere cose che sono viste di cattivo occhio dalla sua famiglia. Non importa niente, è diversa e ciò disturba tutti. Al ritorno sul pulmino giallo ci regala torrenti di silenzio e quando si arriva al campo tutti scendono tranne lei. Fa un tratto di strada in più sul pulmino perché abita dal lato opposto all'entrata dell'accampamento. Scende prendendo fiato e con la grazia di una ninfa sparisce inghiottita carponi da un buco tra lamiere e bandoni. F da anni ormai viene violentata dal padre e dagli zii. È stata respinta dal sistema didattico, respinta dalla società, respinta dagli adulti e respinta dai bambini. F ha una consapevolezza che la metà basterebbe guarire il mondo, ma non ha i mezzi per esprimerlo. Si costringe a tacere i colori della sua anima e forse ormai se ne è fatta una ragione e non può perdersi in sofismi. La vita è dura perché ormai ha 12 anni e un figlio da crescere. 1000.000 case di legno e ferro, autentici capolavori di carpenteria creativa, svettano tra dune di rifiuti, fango e personaggi colorati. Questo è Casilino 900. Questo ha lasciato M per andare all'asilo quel giorno, era partito spensierato sul pulmino insieme a sua sorella R di 4 anni. Sul bus quel giorno giocavano con loro cugino E di 10 anni che teneramente cercavano di tenere buono. E è molto vivace, affetto dalla sindrome di Down. Al ritorno non ci preoccupiamo della folla di fronte al campo, giornalisti, operatori televisivi, assessori e forze dell'ordine si ritrovano lì da più di 10 giorni. Varchiamo la soglia del cancello e ci dirigiamo verso la casa dei ragazzi. Tutto normale per i primi 100 metri, finché vediamo uno scavatore sbriciolare una campina e poi molti altri che a ritmo della stessa musica danzano sulle macerie delle case. I bambini non capiscono, io temo il peggio ma cerco di mostrarmi calmo ai loro occhi e affrettiamo il passo verso la loro casa. Macerie, la casa dove sono nati e cresciuti, sparata a terra come un castello di carte fatto male. E inizia a urlare come un indemoniato, si dà una serie di pugni in testa, in faccia, è fuori controllo e inizia a correre lontano da un'immagine che non riesce a giustificarsi. MR sono prossimi all'infarto, pietrificati, sui loro volti copiose lacrime colano, dando lucentezza ad una smorfia che è terrore puro. Riconoscono i resti dei loro giocattoli, delle loro cose, ma di mamma e papà non c'è nessuna traccia. Dopo 45 minuti e numerose parole rassicuranti, i bambini sono ancora di ghiaccio e hanno finito la voce in gola, tanto che adesso piangono un suono che esce direttamente dai polmoni. E invece ancora fiato per continuare lo stesso urlo che porta avanti da tre quarti d'ora. Arrivano degli uomini, ci spiegano che i genitori sono stati trasferiti nel villaggio attrezzato di Salone, contro la loro volontà e con preavviso diverso da quello pattuito. I bambini vengono presi di peso, caricati su un furgone da degli estranei e deportati nel nuovo villaggio attrezzato. Se una volta nella mia vita ho visto la morte, l'ho vista nei loro occhi. Lì finisce la mia giornata lavorativa, accendo una sigaretta mentre percorro la strada per l'uscita. Cammino lento e con la mente in panne, raggiunta l'uscita la folla è raddoppiata. C'è il sindaco Gianni Alemanno, insieme al comandante della polizia Antonio Di Maggio, parlano dei vantaggi del piano nomadi, parlano di come gli sta a cuore il futuro di queste persone, parole piene di orgoglio su come stanno risolvendo i problemi dei cittadini di Roma. Contornati da 100 telecamere e microfoni, i giornalisti scarabocchiano i taccuini freneticamente e mentre un furgone sparisce in lontananza è tutto un sorrisi e strette di mano. D'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés foulés l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestar l'erba tenera. Trasognato sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro nella natura, lieto come con una donna. Caso del popolo Rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Eredoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua, che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano un mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e quello dell'indovino. È quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto, da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto appunto che gira il mondo da più di 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo. Purtroppo i nostri storici, e non soltanto i nostri, preferiscono considerare i popoli non soltanto in quanto tali, ma in quanto organizzati in nazioni, se non addirittura in stati, e si sa che i Rom, non possedendo territori, non possono considerarsi né una nazione né uno stato. Mi si dirà che gli zingari rubano, è vero, hanno rubato anche in casa mia, si accontentano però dell'oro e delle palanche, l'argento non lo toccano perché secondo loro porta male, lascia il nero. Quindi si sa bene che l'industria ha fatto chiudere diversi mercati artigianali. Buona parte dei Rom erano e sono ancora artigiani, lavoratori di metallo, in special modo del rame, addestratori di cavalli e giostrai, tutti i mestieri che purtroppo sono caduti in disuso. Gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non l'ho mai visto scritto da nessuna parte, che gli zingari abbiano rubato tramite una banca. Questo è un dato di fatto. Da Princesa e i Rom, Fabrizio De André in un discorso durante un concerto. Thank you. All Love. Queste erano le dolci note di All Love di Babik Reinhardt, che appunto è il figlio di Django Reinhardt, anch'esso, anch'egli compositore e chitarrista del jazz manouche. E in particolare l'esecuzione di questo pezzo alla chitarra elettrica c'era David Reinhardt, che è il figlio di Babik e dunque il nipote di Django, di nonno Django. Quindi avevamo le tre generazioni, tre generazioni del Gypsy Jazz riunite in un solo pezzo, davvero molto bello tra l'altro. Con queste note, con questo pezzo, io vi saluto qui dai microfoni di Radio Default. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Whiskey Trip, sempre il mercoledì alle 20:30. E adesso lascio la parola ad Antonio con alcune riflessioni finali e ancora qualcosa di molto bello da ascoltare. Eccoci ragazzi, speriamo questa sera con questo piccolo lavoro che abbiamo fatto per voi di essere riusciti almeno in un ascoltatore di aver aperto almeno un occhio differente su questa cultura che vuoi comunque piena di contraddizioni, non penso possa essere giudicata né superiore né inferiore alla nostra. Ci auguriamo anche, abbiamo voluto parlare di queste cose perché si spera che a breve il sindaco di Roma passerà il testimone, speriamo insomma in qualcuno che possa fare un operato migliore per tutti noi. I Rom in Europa e nel resto del mondo vivono situazioni di quasi perfetta integrazione, i campi nomadi sono rimasti solo in Italia, quelli che ormai Alemanno chiama campi attrezzati, ma di attrezzato c'è ben poco, basti pensare che il progetto di punta del suo campo nomadi era il nuovo villaggio attrezzato di Salone, che per problemi alle fogne e varie altre cose tecniche, insomma, c'è stata un'epidemia di epatite che ha colto adulti e bambini, quindi insomma non penso che, visti anche i risultati che uno al comune stia operando per il bene di queste persone, persone, ma cerca solo di, ecco, magari sgomberare un posto che resisteva dagli anni 50, dove vivevano prima gli italiani sfollati e poi è passato in mano ai Rom, che è casino 900, e viene ceduto mezzo secolo di cultura per fare un parcheggio. E cioè è davvero vergognoso. Dale Manno in prima persona e dalla sua, non lo so, non voglio nemmeno offendere altre categorie, dire pagliacci, ma non se lo meritano, poverini, perché abbiamo personaggi coloriti in questa giunta, tra cui, cioè, su tutti, proprio il mio preferito è Dino Gasperini, che è un ex democristianaccio riciclato nella giunta Le Manno, si è stato assessore alla cultura, ad esempio questa persona ha stravolto le regole dell'arte di strada che funzionava perfettamente a Roma, vietando gli strumenti a corde, gli strumenti a fiato, gli strumenti a percussione. Questo va a toccare tanti Rom che riuscivano a, magari a guadagnarsi la giornata onestamente, e ciò valeva anche per i non Rom, perché insomma anche tanti ragazzi italiani, persone grandi, ne avevano fatto il proprio lavoro, una scelta di vita, ma è stato vietato, giustificandolo come una scelta per il costume della città. Su queste conclusioni, ragazzi, passiamo un'ultima canzone, spero ci perdoniate il fatto che questa volta usciamo sia dai canoni del jazz e del blues, scegliendo un pezzo di Faber. Parliamo di Cora Canè, che è, vabbè, un pezzo che insomma ascolterete da solo il testo, non sto qui a spiegarvelo, ma si conclude con un pezzo nella versione originale cantato da Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio, e nella versione dell'ultimo concerto cantato da Luvi De André, appunto sua figlia, che è uno splendido cantato di una poesia proprio in lingua romanè che affidiamo a questo punto nelle sapienti mani e corde vocali di Robertina. Sto esagerando, Robè, no, dai, che ce la fai benissimo. Quindi ce la legge, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con Whisky Trip su Radio Default. A presto. Poserò la testa sulla tua spalla e farò un sogno di mare e domani un fuoco di legna, perché l'aria azzurra diventi casa. Chi sarà a raccontare? Chi sarà? Sarà chi rimane. Io seguirò questo migrare, seguirò questa corrente di ali. Quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura.